L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata nella quale mi fa molto piacere davvero potervi presentare esperienze di aziende e ricercatori italiani che lavorano in Italia, sì, ma lavorano moltissimo e forse ancora di più all'estero, dove stanno portando avanti politiche o progetti interessanti. Cominciamo da Enel, che in settimana a Londra ha presentato il suo nuovo piano strategico, poiché quello che aveva presentato l'anno scorso, diciamo, è stato superato dalle capacità dell'azienda. Perché ne parliamo in questa trasmissione di un piano strategico? Perché al centro dello sviluppo di Enel, questa Enel a guida Francesco Starace, rimangono le rinnovabili. Le nuove installazioni di impianti a energia rinnovabile nel mondo, non in Italia, passeranno dai 2,1 gigawatt che erano previsti dal piano precedente ai 2,6 gigawatt del piano presentato nei giorni scorsi. Per la maggior parte si tratta di impianti solari o eolici che Enel realizzerà ma poi venderà per conservarne solo la gestione operativa, ma qui si tratta di un passaggio ulteriore che approfondiremo dopo. Per intanto sentiamo cosa ci ha detto Francesco Starace, l'amministratore delegato, quando l'abbiamo intervistato a Londra sulla visione che ha Enel nel campo delle rinnovabili. Sin dall'inizio, quindi parliamo del 2009-2010, deciso di non puntare sugli incentivi nelle rinnovabili, ma di guardare le rinnovabili come una parte importante di un portafoglio di generazione di energia di una società moderna. Questa scommessa l'abbiamo vinta perché oggi la crescita delle rinnovabili nel mondo non va con gli incentivi, ma semplicemente perché le rinnovabili hanno dimostrato di essere competitive con la generazione termica tradizionale, laddove chiaramente c'è la risorsa. Questa è la crescita che continueremo a fare. Siamo diventati una macchina da rinnovabili, nel senso che oggi Enel Green Power è una realtà che mette sul campo circa 2.000-2.500 megawatt all'anno di rinnovabili senza affaticarsi eccessivamente. Questa capacità oggi la mettiamo a disposizione di un piano di crescita che ne porta circa 2.000 e ne metteremo una quantità importante a disposizione con un nuovo sistema, una nuova modalità di creazione di valore, che è quella di costruire, vendere e continuare ad operare gli impianti per conto terzi. Questo moltiplicherà in maniera importante i megawatt che potremo mettere sul campo, generando valore nel tempo molto presto rispetto alla modalità precedente e non gravando sui nostri bilanci. Quanta parte rimane della vecchia formula dell'energia? Noi avremo sempre una coabitazione di queste due, se vogliamo continuare a chiamarle così, forme di energia negli anni, nei prossimi decenni. Una crescendo molto rapidamente e l'altra piano piano andando ad esaurirsi. Questo è un transitorio, questo transitorio durerà il tempo necessario a permetterci di fare questa sostituzione in maniera credibile, in maniera sostenibile, però non c'è dubbio che la nostra traiettoria è quella di arrivare a una situazione in cui il 100% dell'energia che noi produciamo sarà priva di emissioni di carbonio. Noi abbiamo un impegno a decarbonizzare la nostra produzione nel 2050, ci arriveremo probabilmente un po' prima, però da qui anche un po' prima del 2050 ci sono almeno un paio di decenni, quindi questo è un transitorio molto importante. I governi, insomma, che non vi seguono, diciamo, con questa rapidità, abbiamo visto adesso appunto Marrakesh è andata un po' a rilento forse rispetto alle aspettative e alle speranze. Ma diciamo, Marrakesh aveva un compito complesso, perché mentre a Parigi si sono raccolti i consensi su un obiettivo di massima, benché straordinario, perché è la prima volta che tutti si sono messi d'accordo, si è lasciato un po' il compitino di dettaglio al COP seguente, quindi chiaramente Marrakesh ha dovuto in questo momento farsi carico dei dettagli, e come si sa nei dettagli spesso ci si perde o si trovano difficoltà magari nell'entusiasmo dell'accordo tralasciate dietro. Devo dire che tutto sommato però Marrakesh è stato un successo, perché diciamo i temi importanti sono stati tutti affrontati abbastanza coraggiosamente e nonostante, diciamo, il tifone Trump, abbastanza risolti. Quello che succede è che sostanzialmente l'industria, noi siamo parte dell'industria, ha avuto una conferma che la direzione è quella, e soprattutto che parti molto importanti del sistema mondiale dal punto di vista energetico, per esempio la Cina, non hanno nessuna intenzione di tornare indietro. Questo è quanto ci basta, perché alla fine quello che dobbiamo sapere non è tanto la percentuale al secondo decimale di quanti sono le emissioni che dobbiamo ridurre nel 2022, ma quanto sapere che continuare a investire in infrastrutture che generano anidride carbonica o biossido di carbonio sono, o gas serra in generale, è un investimento tendenzialmente rischioso, il cui rischio aumenta nel tempo e di conseguenza, logicamente, è un investimento da non fare. Andiamo ancora più nel dettaglio con Francesco Venturini, che è responsabile di Enel Green Power. Ci ha detto: forse sembra, ma non disinvestiamo affatto. L'obiettivo è sempre lo stesso, far crescere la produzione di energia rinnovabile, anche se cambierà poi, come avevamo anticipato, la gestione dei nostri impianti. Dice ancora: aggiungeremo 2000 megawatt l'anno di nuova capacità. Sentiamo Francesco Venturini. La corsa alle rinnovabili non si ferma ma si accelera. Guardando i numeri e quindi andando a vedere le due tipologie di investimento che andiamo a fare, una parte andremo a tenere interamente la proprietà degli impianti, in un'altra parte andremo a implementare il cosiddetto BSO model, quindi costruisci, vendi e poi continua a mantenere le operazioni all'interno dell'impianto. Se vado a sommare le due cose, l'azienda andrà a costruire circa un gigawatt di capacità in più nei prossimi 3 anni rispetto al vecchio piano, quindi in realtà da un punto di vista delle rinnovabili continuiamo a crescere e continuiamo a crescere in maniera importante. Una crescita diciamo diversa, ecco, forse. La realtà è tutta crescita poi organica, perché i progetti li sviluppiamo noi, i progetti li costruiamo noi, e qua il giochino è quello di, in determinate geografie, quando ci sta l'opportunità di farlo, vendere a, generalmente sono operatori finanziari che vedono questi investimenti come investimenti a lungo termine importanti, e quindi entrano avendo un costo del capitale spesso e volentieri ancora più basso del nostro, entrano a premio, cioè ci pagano un premio per comprare una parte dell'impianto. Questo è il modello che ormai non è neanche tanto nuovo, perché sono 2-3 anni che lo stiamo portando avanti, quindi e ripeto, andando a implementare tutto questo si sta parlando di andare a crescere a ritmi ancora superiori a quelli di quest'anno, che sono stati veramente brutali in generale, quindi crescita importante. C'è una tecnologia sulla quale vi concentrerete più che su altre? Ma nella realtà non esiste una tecnologia prevalente, perché dipende moltissimo dal luogo geografico in cui uno va a sviluppare la tecnologia e dal tipo di competizione che ti trovi nel posto in cui tu vai a sviluppare, che poi sono figlie della strategia energetica del paese in cui vai a fare il tuo mestiere. Noi riusciamo a portare più o meno in media lo stesso margine su quasi tutte le tecnologie, quindi non vedo una tecnologia prevalente da un punto di vista del ritorno, vedo tecnologie prevalenti nel volume che andremo a implementare. Sicuramente eolico e solare continuano ad essere grossi cavalli di battaglia, sono tecnologie che in questo momento hanno la maggiore capacità di produrre energia a basso costo in giro per il mondo. Tanto anche per l'abbattimento dei costi di queste tecnologie. Assolutamente, l'abbattimento dei costi è stato gigantesco, stiamo parlando del quasi 90% negli ultimi 6-7 anni soltanto sul solare, dovuto da una parte alla loro capacità, per i suoi commodity è abbassato, la loro capacità industriale è sicuramente aumentata. Ora si fanno fabbriche che riescono a produrre quasi più di un gigawatt di produzione all'anno, quindi sono delle cose gigantesche. E contemporaneamente la domanda in Cina si è abbassata, quindi ci sta tanta sovracapacità e noi ne stiamo approfittando. Ripeto, non esiste una tecnologia prevalente, noi sulle prime 4 siamo fortissimi e continueremo ad esserlo. Riesce, guardando al futuro, a prevedere un momento in cui le rinnovabili prevarranno sulle fonti di energia standard? Ma secondo me già sta succedendo in questo momento, cioè la strada è segnata, mentre prima era una strada motivata da riduzione della CO2, ora è una strada motivata da tanti altri obiettivi. Il primo di tutti è il costo, cioè ormai si sono raggiunti livelli di costo per la generazione del megawattora che sono assolutamente competitivi e in gran parte dei paesi in giro per il mondo competitivi sia con il gas che con il carbone. Ricordiamoci poi che le caratteristiche di queste tecnologie rispetto alle tecnologie tradizionali ne fanno spesso obiettivo di implementazione a prescindere dal costo. Ricordiamoci che se uno investe in solare e in eolico e quindi ha la risorsa per farlo nel proprio paese, ma non ha petrolio o gas si rende indipendente o meno parzialmente indipendente dall'import da altri paesi, che vuol dire nuovamente avere riserve energetiche proprie, vuol dire sganciarsi dall'inflazione, vuol dire tante cose. Quindi le politiche energetiche più di successo sono quelle che mescolano il portafoglio e cercano più possibile di generare elettricità all'interno del paese stesso. E in Italia come vanno le cose? Esistono paesi, e da un punto di vista delle cose di sostenibilità sono molto molto avanti, perché hanno nella maggior parte dei casi una fortissima capacità idraulica. Faccio esempio del Costa Rica. Il Costa Rica arriva a momenti in cui il momento è lungo, si parla di giorni, in cui riescono a produrre praticamente tutta l'energia da fonti rinnovabili. L'Italia deve capire che cosa vuole fare da un punto di vista energetico, e purtroppo questo qui si lega, non è una scelta facile, perché si lega poi a quelle che sono le scelte europee. Quindi in questo momento bisogna attendere con serenità, ma anche con attenzione ovviamente, per vedere la comunità europea che framework andrà a creare nel prossimo mese e mezzo, più o meno ormai si hanno delle indicazioni, e dopodiché come l'Italia intende agganciarsi a questo framework e che cosa intende fare. Molto sorridente, molto diplomatico, Francesco Valentini di Enel Green Power. Facciamo una pausa, torniamo tra poco con altri progetti di italiani all'estero. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, continuiamo, diciamo così, il giro per il mondo, parliamo di Italia e Russia, ma l'abbiamo fatto in collegamento con Marrakesh, dove come è noto si è tenuta la COP22, la conferenza tra le parti, che doveva dare un seguito agli accordi sul clima di Parigi. In Marocco è stata presentata al Padiglione Italia una collaborazione molto interessante tra il nostro paese e la Russia nell'ambito della ricerca scientifica, perché il governo russo ha infatti finanziato una serie di iniziative in cui ha un ruolo centrale il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che è ovviamente un centro italiano, se no non ne staremo parlando adesso. Riccardo Valentini è docente dell'Università della Tuscia, dirige la divisione del CMCC che si occupa di impatto dei cambiamenti climatici, è stato più volte nostro ospite, ma non è famoso certo per quello, quanto per aver ricevuto il Nobel per la pace nel 2007 per gli studi sui cambiamenti climatici insieme ad altri suoi colleghi. Ed ecco come Valentini ci ha presentato questa collaborazione tra Italia e Russia nel campo della ricerca scientifica. Il primo progetto che noi abbiamo presentato e che riguarda una collaborazione tra l'Università di Tor Vergata e l'Università di San Pietroburgo riguarda proprio una nuova tecnologia che ha sviluppato il professor Aldo De Carlo dell'Università di Tor Vergata per quanto riguarda la possibilità di sfruttare molecole organiche per la produzione di pannelli fotovoltaici che avessero una sensibilità maggiore, un'efficienza maggiore, soprattutto in climi boreali ad alte latitudini, dove c'è poco sole, c'è poca radiazione solare e la maggior parte della radiazione è di natura diffusa, quindi ha una, diciamo così, caratteristica, se possiamo dire dal punto di vista spettrale, diversa da quella che ha invece alle nostre latitudini. Il professor De Gallo ha sviluppato questo centro di ricerca appunto presso l'Università di Tor Vergata con dei brevetti proprio che riguardano queste molecole organiche in grado di catturare proprio la luce in queste zone, e oggi rappresenta praticamente un punto avanzatissimo. Già c'è una linea piccola di produzione proprio presso il centro di Tor Vergata e sta diventando un'opportunità enorme, perché questo permetterebbe di sviluppare il fotovoltaico proprio nelle zone più a nord del pianeta, e quindi l'Italia in questo senso ha una posizione leader, e questo è stato uno dei motivi per cui è stata ricercata la nostra tecnologia. Diciamo che è stata anche un'ottima collaborazione, perché molecole organiche erano state per prima selezionate dall'Università di San Pietroburgo da una ricerca russa che ha trovato un nuovo materiale appunto, e l'Università di Tor Vergata è riuscita a trasformare questo materiale in applicazione vera e propria, e quindi a realizzare i veri e propri sistemi di pannelli fotovoltaici organici. Quindi questa è stata la prima iniziativa. Quindi ciascuno ha dato il suo contributo. Quindi una collaborazione veramente molto intensa di rapporto proprio scientifico. Poi il Centro Aeromediterraneo sui cambiamenti climatici è stato chiamato a sviluppare un nuovo laboratorio di analisi del cambiamento climatico in Russia, perché attualmente gli scenari climatici prevedono delle condizioni di riscaldamento che portano a ipotizzare, diciamo, l'aumento di alcune aree agricole dal punto di vista della produttività, quindi la possibilità di sviluppare un'agricoltura anche con colture e varietà diciamo non tipiche ad oggi delle zone fredde. Quindi addirittura si pensa anche la coltivazione della vite e dell'olivo in alcune regioni al sud della Russia. Quindi questa analisi Questo è un adattamento, diciamo, al cambiamento climatico? Sì, diciamo è un adattamento uno studio che in questo caso positivo, diciamo. Quindi c'è un grosso interesse del settore agricolo russo, diciamo, di capire le opportunità che provengono da questa analisi. Allora il Centro Mediterraneo sta sviluppando una serie di modelli per dare queste informazioni strategiche, e quindi anche in questo caso l'Italia è stata chiamata per la sua eccellenza, perché questo CMCC è un centro realizzato in parte con i soldi dello Stato, in parte, diciamo, vive di progetti di ricerca in tutto il mondo. È un centro di eccellenza, ce ne sono 4 in Europa, in Italia appunto c'è questo centro che ha un super computer, proprio un vero e proprio centro di calcolo avanzatissimo dedicato proprio agli scenari del clima, e infatti il CMCC è uno dei partner delle Nazioni Unite, dell'IPCC, per diciamo lo sviluppo dei nuovi scenari futuri, insomma, che vengono discussi proprio in queste occasioni di queste conferenze sul clima. Ci è stato richiesto di mettere in piedi proprio in Russia un centro analogo, diciamo, di analisi degli impatti del clima, che sia servizio soprattutto della regione a est, nell'area Asia Pacifica. Quindi parliamo in questo caso di un accordo con l'Università di Vladivostok, che si affaccia sul mare del Giappone, e l'ambizione di questa università è che insieme con il CMCC di creare un centro di analisi degli impatti del clima a servizio di tutta l'area appunto Asia Pacifica, diciamo la Siberia orientale, fino appunto anche a essere un centro leader anche di riferimento per tutta l'area, quindi includendo anche la Cina, il Giappone, Corea, eccetera. E poi una terza iniziativa è più dedicata invece all'agricoltura proprio in senso stretto, con l'Università di Mosca, l'Università Agraria di Mosca, con cui abbiamo sviluppato invece una collaborazione per la robotica e l'automazione nell'agricoltura, nelle tecniche agricole. Quindi anche da qui l'Italia, siccome ha delle eccellenze anche importanti sui sistemi di processo, diciamo, no? Questa che chiamiamo un po' Industry 4.0, in cui insomma l'Italia è leader, e loro vorrebbero sviluppare a Mosca proprio un centro di eccellenza per queste nuove tecnologie di automazione di processo nel settore, diciamo, agricolo e nel settore food, del cibo, quindi dell'agroindustria. Quindi queste sono le tre iniziative che abbiamo presentato. È venuto anche il rappresentante della delegazione del governo russo a indirizzare il suo saluto, molto felice di questa iniziativa. Sono molto contento, perché insomma, è stata una testimonianza di grande interesse. A San Pietroburgo, l'abbiamo sentito, il CMCC partecipa di studi che sperabilmente porteranno alla realizzazione di un polo tecnologico per il fotovoltaico organico. È uno studio che, abbiamo sentito, è stato messo a punto a Roma, all'Università di Tor Vergata, dopo che i primi passi erano stati compiuti in Russia. E sono proprio questo tipo di ricerche e di esperienze che interessano Officine Verdi, una realtà italiana che con il suo acceleratore di innovazione, Green Capital Alliance, si propone di identificare e di mettere nel mercato le innovazioni in campo di ambiente e sostenibilità. E noi abbiamo contattato l'amministratore delegato, che è Giovanni Tordi. Lavorando a quattro mani con il CMCC, il Centro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, stiamo